Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Nel giorno del voto per il no alle Olimpiadi, ancora una grana per il Comune di Roma. Si sarebbe dimesso il ragioniere generale, ma il Campidoglio dice non ci risulta. Più deficit per sisma e migranti per 7,7 miliardi, chiede il governo. Pensioni, l'APE avrà un costo inferiore alle cifre circolate, secondo il sottosegretario Nannicini. Inizia stasera lo sciopero del personale ferroviario, a rischio soprattutto i treni regionali. Si parte alle 21, si finisce alle 21 di domani. Giornata dell'olio extravergine, aumentano le contraffazioni, secondo Coldiretti. Il Ministero ha fatto 26.000 controlli in 2 anni. Finti abbandoni di minore per il permesso di soggiorno, arresti a Forlì e la denuncia di un sindaco, quello di Faenza. Prima controespulsione a Tarvisio Pescati, 3 richiedenti asilo che erano transitati dall'Austria sono stati rimandati indietro. A Trieste assalto agli ambulatori dopo la notizia di una pediatra con la tubercolosi, 3.500 i bambini richiamati. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi siamo in diretta da Bologna, dai nostri studi al Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'edilizia e l'arredo bagno. Più avanti ci andremo con un servizio del nostro inviato che ha fatto un giro qua per vedere quali fossero gli ultimi trend. Intanto iniziamo il nostro giro tra le notizie partendo dai problemi che riguardano la Giunta di Roma e l'amministrazione comunale. Da una parte è in corso il voto, e dovrebbe arrivare tra poco, il voto definitivo sul no alle Olimpiadi da parte del Consiglio Comunale. Dall'altra parte c'è qualche problema che riguarda il ragioniere generale della capitale. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Così l'Assemblea Capitolina si appresta dunque a ratificare questo no alle Olimpiadi del 2024, un no già anticipato la scorsa settimana dalla sindaca Virginia Raggi. Si vota su una mozione che chiede di revocare la candidatura che era stata avanzata durante la precedente amministrazione. L'esito di questo voto è scontato vista la maggioranza di cui gode il Movimento 5 Stelle. In aula stamattina comunque non sono mancate le proteste da parte delle opposizioni che hanno invitato i rappresentanti del comitato promotore, ai quali però la maggioranza non ha permesso di intervenire. A breve dovrebbe parlare la prima cittadina, poi è attesa il voto, ma fonti del Campidoglio nel frattempo fanno sapere che al momento non risultano invece le dimissioni del ragioniere generale Stefano Fermante, lo dicevi, che secondo il quotidiano Repubblica ieri avrebbe invece deciso di rimettere il mandato nelle mani della sindaca. Sono troppo isolato, manca un indirizzo politico, avrebbe spiegato Fermante, e naturalmente se confermato il suo passo indietro sarebbe, diciamo, una nuova tegola per Raggi, che lo ricordiamo deve ancora nominare sia l'assessore al bilancio sia quello alle partecipate, ma anche il suo capo di gabinetto. Simone. Grazie ad Andrea Viali per questo aggiornamento. Restiamo sulla politica e poi andremo alla politica economica, ma restiamo sulla politica, andiamo al fronte del referendum. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, ancora un avvertimento dalla minoranza Dem al premier Matteo Renzi, ancora un no alle riforme, arriva questa volta dall'ex segretario Pierluigi Bersani. Renzi va verso il burrone, non vede quello che succede in Europa, nel mondo, non sente quello che ribolle sotto di noi, si comporta da irresponsabile. Per Bersani, se vince il sì, si tira dritto, il premier tira dritto, scusate, senza cambiare l'italicum, e si va a finire contro un muro. Diversa l'ipotesi se vince il no. Ma sentiamo Bersani, intervenuto questa mattina su Radio 24. La fase del no sta in questo: col no salta l'italicum, ok? Benissimo. E se uno pensa che il problema sia quello, ma un problema serio, con quel che succede in Europa e nel mondo, allora è portato a dire, come dico io, o me lo togli, ma io credo ai fatti, il governo mise la fiducia sull'italico. Nessun problema invece per la tenuta del governo, sostiene poi Bersani, qualora vincesse il no la maggioranza che sostiene il premier, ci sarebbe anche dopo. Diversa invece l'ipotesi per Gianni Cuperlo, per il quale Renzi si dovrebbe dimettere. Nel frattempo però torna in campo Silvio Berlusconi, che proprio oggi compie 80 anni, il centrodestra cerca di andare unito al referendum per il no. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito anche a te per questo aggiornamento. Ci spostiamo, come già si diceva, sulla politica economica. Tra un attimo torneremo anche a parlare di pensioni, ma prima ci occupiamo del DEF, perché ci sono dettagli ulteriori per quel che riguarda i costi del sisma e della gestione dei migranti. Vincenzo Miglietta, buongiorno. E così, con l'approvazione della nota di variazione al DEF, è definito per il momento il primo capitolo sulle pensioni. La manovra inizia a riempirsi non solo di buoni propositi, ma anche di numeri. Allora partiamo proprio da questi e da quanto viene specificato nell'ultima versione della nota di aggiornamento. Palazzo Chigi guarda con ottimismo al 2017 e spiega che il PIL previsto all'1% potrebbe anche essere maggiore se sarà sfruttata la possibilità di aumentare il deficit dal 2% programmato fino allo 0,4% in più. Si torna allora, Simone, sempre allo snodo cruciale per la legge di bilancio: i margini in più concessi da Bruxelles, che ufficialmente non si possono chiamare flessibilità, ma per criticità eccezionali non meno di 7 miliardi. Ci riferiamo all'emergenza sisma e al fenomeno dell'immigrazione. Su questi due punti il ministro dell'economia Padoan ha comunque spiegato che ancora non ci sono cifre precise. Quindi il capitolo imprese, Padoan ha ripetuto che le risorse saranno concentrate su interventi che hanno dimostrato di funzionare, come il superammortamento, sia anche alla detassazione del salario di produttività. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Si diceva, l'altro grande tema è quello delle pensioni, un punto dopo l'incontro di ieri. Per le pensioni il governo è pronto a mettere sul piatto 6 miliardi in 3 anni, la metà per favorire l'uscita anticipata dal lavoro a partire da 63 anni e gli altri 3 miliardi per sostenere le pensioni più basse. 5 i punti del pacchetto: anticipo pensionistico sperimentale per 2 anni con il meccanismo del prestito bancario assicurato, estensione della no tax area per i pensionati fino a 8.125 euro, 14esima per altri 1,2 milioni di pensionati e aumento medio del 30% del bonus per i 2,1 milioni di persone che già la percepiscono, ricongiunzione gratuita e accesso agevolato alla pensione per lavoratori precoci e usuranti. L'unico punto dell'intesa ancora aperto è quello sull'APE. Il governo prevede un anticipo pensionistico gratuito con rate coperte da bonus fiscali solo per alcune categorie svantaggiate e solo per quanti fra loro è sotto i 1.300 euro lordi, una soglia considerata dai sindacati troppo bassa. Per gli altri lavoratori l'APE sarà volontaria e l'onere a carico sarà di circa il 5-6% per ogni anno di anticipo, fino a un massimo di 20-25%, ma il costo dell'APE, secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini, sarà inferiore alle cifre che circolano. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro dunque dalle pensioni. Veniamo all'estero, ma per continuare in realtà a parlare di politica economica e di economia, ieri l'intervento del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi davanti al Bundestag, nel quale ha parlato anche di problemi delle banche tedesche, in particolare con riferimento evidente a Deutsche Bank. Ha detto devono reggere anche a una politica di tassi bassi. A proposito di banche tedesche, è notizia di oggi che Commerzbank taglierà 9.600 posti di lavoro, 7.300 al netto dei nuovi posti che verranno creati in aree strategiche di crescita, e rinuncia per il momento al dividendo. Nel frattempo Draghi oggi ha incontrato Angela Merkel. Ci colleghiamo con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, buongiorno. Non hanno fatto filtrare niente né da, appunto, dagli uffici della cancelliera né da quelli del presidente della BCE? Sì, buongiorno. È la prassi che quando ci sono questi incontri periodici fra Draghi e la Merkel, nessuno dei due poi riveli qual è il contenuto dell'incontro. È chiaro che in questa fase i rapporti fra Draghi e la politica tedesca sono abbastanza tiepidi, per non dire freddi, non necessariamente con la cancelliera, ma si è visto ieri alla riunione con i deputati del Bundestag, che di fatto proprio i rappresentanti del partito della cancelliera, cioè i democristiani, sono stati quelli più pesantemente critici nei confronti della politica monetaria della BCE, mentre questa ha avuto il supporto, l'appoggio dei socialdemocratici e dei verdi. Però è chiaro che è una fase difficile dei rapporti, un'altra o l'ennesima fase difficile dei rapporti tra la BCE e la Germania. Alla BCE si imputa questa politica di tassi troppo bassi che, a dire dei tedeschi, penalizza sia i loro risparmiatori che le loro banche. Accuse che in parte Draghi ha rimbeccato ieri nel suo intervento, ma è chiaro che molto spesso in Germania non si vuole sentire l'argomentazione, ma semplicemente si parte un po' da posizioni preconcette contro Draghi. Ti ringrazio, grazie ad Alessandro Merli per questo racconto e anche per l'analisi di quello che è successo ieri. Noi andiamo a parlare di Sudan, perché Amnesty accusa il Sudan di aver usato armi chimiche. Sono più di 200 le persone uccise da armi chimiche in Darfur. La notizia è fondata ed è stata diffusa da Amnesty International dopo un lavoro d'indagine durato 8 mesi che racconta con foto, testimonianze e video la violenza, il senso di impunità e l'arroganza di un governo, quello sudanese, che per 30 volte ha usato armi chimiche contro la popolazione, tra loro anche molti bambini. L'offensiva è stata lanciata lo scorso gennaio. Nel rapporto di Amnesty si parla anche di stupri e uccisioni di massa. Si tratta di accuse infondate che mirano a creare confusione nei processi di pace in corso, ha detto Omer Dahab Fadl Mohamed, ambasciatore del Sudan all'ONU. Dopo 13 anni di guerra, infatti, in Sudan si lavora, grazie anche all'intervento dell'ONU, a un progetto di pace. Ma la verità è che il paese è lontanissimo, anche solo da una tregua, e la sensazione è quella di un governo di Khartoum che vive convinto d'essere impunito, senza timore di ripercussioni da parte della comunità internazionale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo all'Italia. Stasera inizia lo sciopero dei treni. Lo sciopero comincerà alle 21 di questa sera e andrà avanti per 24 ore. Indetto dai sindacati CUB, SGB e CAT, coinvolgerà i dipendenti di Trenitalia, Trenord, la società che gestisce le ferrovie regionali lombarde, e NTV, la compagnia dei treni Italo. I disagi coinvolgeranno soprattutto i treni intercity e quelli regionali, che potranno subire ritardi e cancellazioni. Trenitalia ha fatto sapere che saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 e che le frecce non subiranno interruzioni e viaggeranno regolarmente. A Roma sarà garantito anche il collegamento tra Termini e Fiumicino. Potrebbero invece subire ritardi o cancellazioni i collegamenti con lo scalo di Malpensa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Coldiretti celebra oggi la giornata dell'olio extravergine di oliva a Firenze. È arrivato anche il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ma è stato anche un momento buono per fare un punto sulle truffe e sui controlli. Ubaldo Cianciulli, buongiorno. Simone, buongiorno. Per il governo c'è allora ti fermo Ubaldo, perché abbiamo un audio veramente pessimo e vedremo se saremo in grado di recuperarti nel resto della trasmissione, nella parte restante della trasmissione. In effetto giorno, dunque oggi ormai lo sapete tutti, l'avete visto sui giornali, l'avete visto su internet, gli 80 anni di Silvio Berlusconi. Beh, qualche spunto dal nostro Dario Ceccarelli. È fatta, da domani almeno per un giorno tornerà il silenzio alle celebrazioni per gli 80 anni di Silvio Berlusconi, detto anche il CAV, sua emittenza, il Caimano, Papi, mi consenta, via piacere, sono come quei fuochi d'artificio inesauribili, belli, ok, ma non finiscono mai. Il fatto è che Berlusconi è Berlusconi, 20 anni, anche 30, di storia d'Italia. Televisioni, calcio, politica, giustizia, crociere, cene eleganti e meno eleganti, cucù e occhiali da sole. Dovunque ci ha messo lo zampino, obbligando a dividersi, a stare con lui o contro di lui e a confrontarsi con lui. È un numero uno, un pezzo unico. Non a caso nel calcio e nella politica le sue grandi passioni non lascia eredi. Lui è lui, gli altri contano solo se gli fanno da specchio. Quando si ribellano, Silvio li cancella. Basta, via, non sei degno. Il povero Fini, gli allenatori del Milan. Non per caso Silvio ha detto: chi vorrei essere se non fossi Berlusconi? Ovvio, il figlio di Berlusconi. Forse, per i suoi 80 anni, la cosa migliore che si può augurargli è di godersi finalmente la vecchiaia, di sedersi su una panchina, magari quella del Milan, senza dover più dimostrare niente, via la bandana, i capelli finti, il cerone, gli avvocati, rientrare saggiamente nei ranghi e provare ad essere normale, la cosa più faticosa del mondo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come vi abbiamo detto in apertura, siamo in diretta da Bologna, dal Cersaie. Ebbene, il nostro inviato Adriano Palazzolo ha fatto un giro per il salone alla scoperta delle novità e delle nuove tendenze. Sentiamo. Il presidente di Confindustria Ceramica, Vittorio Borelli, ha assicurato che quest'anno il settore vedrà una piccola ripresa dopo oltre 8 anni di crisi e dai padiglioni di Cersaie si può vedere quanto i produttori stiano innovando per recuperare mercato e intercettare le nuove esigenze dei clienti che sono arrivati qui da tutto il mondo. Partiamo dai colori dell'arredo bagno, che cambiano rispetto al classico bianco lucido, come ci spiega Alessandro Scopetti. Ci abbiamo molti colori pastello, quindi abbiamo fatto delle tinte anche loro un po' inusuali, senza abbiamo fatto un prugna, un mirto, un pervinca. Sempre più evidente poi anche la tendenza che spinge la ceramica verso il design, con grandi nomi come Pininfarina e Giugiaro, oltre al recupero dei disegni di Joe Ponti. A stupire anche il Laundry Space, una lavanderia nascosta di cui ci parla Fabiana Scavolini. L'asse da stiro che è nascosto in una base, la lavatrice e l'asciugatrice che sono nascoste in un armadio, i cestelli estraibili per quello che riguarda appunto panni e altro. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna. Oh, l'avevamo perso prima, vediamo se siamo in grado di recuperare Ubaldo Cianciulli da Firenze per questa giornata appunto dedicata all'olio extravergine d'oliva. Ubaldo, eccoci, ciao. Ciao Simone, sì, riproviamoci. Nel frattempo Matteo Renzi ha preso la parola e ha salutato la platea, ha detto che domani sarà il funerale di Shimon Peres, questo ve lo anticipo già come piccola notizia. E diciamo che qui al Mandella Forum di Firenze ci sono migliaia di persone arrivate da tutta la Toscana e dalla Liguria, ma anche da più lontano, per la giornata nazionale organizzata dalla Coldiretti a tutela dell'olio extravergine d'oliva, l'oro verde naturale che ogni giorno deve essere presente sulle nostre tavole. I lavori sono stati aperti dal presidente nazionale della Coldiretti, Roberto Moncalvo. Concorrenza sleale, speculazione, mancanza di trasparenza, truffe, inganni e contraffazione sono i mali che mettono a rischio il made in Italy e che molto spesso anche all'estero, ma soprattutto in Italia, impediscono di sapere cosa si mangia realmente, sottraendo quindi milioni di euro agli agricoltori italiani per mancati guadagni. E proprio dalla Toscana, che incarna tanti valori del Made in Italy, parte la manifestazione a tutela dei nostri prodotti e della nostra salute. E dal segretario nazionale della Coldiretti è invece partito uno spot per il referendum non condiviso da tutta la platea che l'ha fischiato. Vincenzo Gesmundo ha parlato di un treno che passa ora e mai più e che va preso subito, mentre invece gli agricoltori chiedono anche la dicitura Made in Italy per la pasta, perché temono che non ci sia grano italiano tra le materie prime. E da Firenze è tutto, lì nello studio. Grazie Ubaldo Cianciulli per questo racconto da Firenze. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia, e lo iniziamo raccontando una storia che arriva dall'Emilia Romagna ed è vi abbiamo raccontato spesso del problema che vivono i comuni con gli arrivi di migranti. È un problema che riguarda soprattutto i minori non accompagnati, perché se dei richiedenti asilo o dei migranti se ne fa carico lo Stato, dei minori non accompagnati deve farsene carico il comune. Ebbene, pare che si stiano verificando una serie di truffe da questo punto di vista che fanno sì che le casse comunali si svuotino. La denuncia arriva da Faenza, oggi c'è stata un'operazione di polizia a Forlì proprio su questo tema. E poi andremo a Trieste, dove, come già vi dicevamo nei titoli, c'è una pediatra affetta da tubercolosi, c'è stato un richiamo di 3.500 bambini perché era quella che si occupava delle vaccinazioni, ma pare che gli ambulatori siano tuttora presi d'assalto dalle madri che sono giustamente spaventate. A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di quello che sta succedendo a Roma con il voto per il no alle Olimpiadi e i problemi nella giunta Raggi. Abbiamo parlato del DEF e delle pensioni, abbiamo parlato dello sciopero del personale ferroviario che inizia questa sera alle 21. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Faenza. Siamo in provincia di Ravenna e abbiamo in linea il sindaco Giovanni Malpezzi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti, salve. Allora, la vicenda qual è? Abbiamo raccontato spesso da questi microfoni, già lo dicevo prima della viabilità, che c'è un problema che riguarda i minori stranieri non accompagnati, ossia che vanno generalmente in carico ai comuni e non allo Stato, il che crea una serie di disagi, innanzitutto in termini organizzativi e poi in secondo luogo in termini di bilancio. E però quello che si sta verificando sulla base di questo è nella sostanza, Malpezzi, una vera e propria truffa, nel senso ci sono dei minori albanesi che vengono accompagnati addirittura dai genitori in Italia, dopodiché vengono lasciati là e i comuni se ne devono fare carico. Mi sembra aver capito che funzioni più o meno in questo modo. Esattamente, si tratta di una sorta di truffa legalizzata, nel senso che è uno sfruttamento delle pieghe della nostra normativa che fa carico agli enti locali, ai comuni, di assistere i minori che apparentemente si trovino in stato di abbandono. Dico apparentemente perché nella realtà non sono privi di famiglia e tantomeno sono abbandonati. Sono tutti ragazzi che arrivano con i 16 anni di età compiuti, in pratica vengono in Italia per fare 2-3 anni di formazione e ottenere al compimento del 18° anno di età in maniera abbastanza facile il permesso di soggiorno. Sì, il permesso di soggiorno, perché tra l'altro poi in genere lo sappiamo, gli albanesi l'italiano lo parlano molto bene generalmente, quindi gli è anche facile inserirsi, quindi fanno formazione di fatto a spese o del comune o dello Stato, comunque sfruttano i servizi sociali del comune, dopodiché appunto si prendono il permesso di soggiorno. E, oggi tra l'altro su questo c'è stata addirittura un'operazione di polizia e ci sono state 66 denunce per truffa, per questo tipo di truffa nella zona di Forlì. Dall'altra parte voi avete intenzione di chiedere, mi sembra di aver capito, sindaco, il risarcimento ai genitori, ho capito bene? Sì, noi abbiamo a suo tempo anche fatto denunce per truffa, laddove abbiamo potuto identificare soggetti che avevano accompagnato di fatto questi minori. Poi abbiamo attivato anche il canale dell'azione civile per risarcimento danni, dopo aver identificato le famiglie di origine e aver scoperto anche che qualcuno di queste era ad esempio dipendenti pubblici, poliziotti albanesi, abbiamo attivato notifiche, prima diffide, poi azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni. Onde evitare fraintendimenti, il sindaco che abbiamo in linea non è un sindaco della Lega, è un sindaco del Partito Democratico, quindi questa, come dire, questa denuncia se vogliamo sotto questo aspetto ha una forza anche diversa. Qua lei fa un ragionamento, mi sembra di aver capito, Malpezzi, che riguarda chi ha diritto e chi non ha diritto, cioè dice non è una questione di straniero o non straniero, è che questa è appunto una truffa. Se noi tollerassimo queste situazioni, toglieremmo e stiamo togliendo risorse a chi veramente ne ha bisogno. Dobbiamo impegnarci per poter dare continuità ai servizi sociali, disperdere risorse che per noi significa circa 800.000 euro l'anno per accogliere. 800.000 euro l'anno. Esatto. Quanto costa un minore straniero non accompagnato al giorno ad un comune? A seconda del tipo di struttura, dagli 80 ai 100 euro, anche di più, se non troviamo una struttura libera. Tra gli 80 e i 100 euro. E quanti minori stranieri non accompagnati di origine albanese avete sul vostro territorio al momento? In questo momento sono 20. Tengo conto che dall'inizio dell'anno ne sono arrivati 33, ma sì, con le azioni che abbiamo messo in campo, fra quelli che abbiamo riaffidato ai genitori dopo le minacce di azioni legali che abbiamo messo in campo, quelli che sono stati abbiamo trovato sul territorio dei parenti, perché poi sono tutti provenienti dalla provincia di Elbasan e quindi ormai in zona ce ne sono di cugini, il numero siamo riusciti a ridurlo. L'anno scorso erano arrivati 50, in 3 anni 120, quindi stiamo parlando di numeri che su un bilancio di un comune medio-piccolo pesano parecchio. La ringrazio, grazie Giovanni Malpezzi, sindaco di Faenza. Una piccola precisazione per gli ascoltatori che magari votano Lega e si possono essere sentiti offesi da quello che ho detto prima. Sia chiaro, il punto era, dato che la Lega ha una politica molto più dura nei confronti dell'immigrazione rispetto al Partito Democratico, il fatto che la denuncia arrivi da un sindaco del Partito Democratico dà, se vogliamo, una forza maggiore esattamente per questo motivo. Era semplicemente questo il punto, nessun razzismo, come qualcuno scrive via SMS, nei confronti della Lega. Riccardo Tomins, direttore della struttura complessa di igiene e sanità pubblica ambientale del Dipartimento Prevenzione ASL di Trieste. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Prossimo punto del nostro giro per l'Italia per raccontare di questa vicenda. C'è una pediatra che avete scoperto, che ha scoperto di avere la tubercolosi, solamente che era una pediatra che vaccinava i bambini e quindi si è stati costretti a richiamarne 3.500, è così? Allora, noi abbiamo avuto la notifica di un caso di tubercolosi polmonare aperta a carico di un operatore sanitario che lavora per la nostra azienda. E l'operatore in questione è impegnato e lavora presso alcuni dei nostri centri vaccinali e dall'indagine epidemiologica che abbiamo fatto abbiamo rintracciato una serie di contatti e d'accordo con anche i pediatri del Burlo Garofalo che abbiamo contattato per la vastità del problema, abbiamo ritenuto opportuno, nonostante il rischio di contagio sia veramente basso, di richiamare per controlli un certo numero di bambini, cioè tutti quelli che sono stati nell'ultimo anno visti da questo operatore, e il numero si è un po' ridimensionato perché stiamo lavorando su questi elenchi, adesso siamo 2633, però insomma è un numero indicativo, parliamo sempre di oltre 2500 bambini. Oltre 2500 bambini, però mi sembra aver capito un po' di panico si è scatenato, ci siete trovati gli ambulatori pieni, le telefonate a raffica delle madri. Beh, tenga conto che fra ieri e oggi abbiamo gestito 2200 chiamate con il nostro call center. Ci sono continue lamentele, ahimè, di persone che dicono non troviamo la linea, ma abbiamo da 5 a 6 operatori sempre al telefono e quindi cerchiamo di gestire le cose con il massimo delle risorse disponibili. Allora facciamo una cosa Tomin, se ci fossero madri triestine all'ascolto, le chiamate voi se ci sono dei rischi, no? Assolutamente sì, perché noi abbiamo l'elenco dei bambini che sono da controllare e stiamo chiamando attivamente queste famiglie dando l'appuntamento per fare il test e quindi capire se il bambino è stato contagiato o meno. Contagiato oppure no. Comunque ci diceva il rischio molto basso. Io la ringrazio, grazie a Riccardo Tomins. Dunque, se siete madri, bambini di Trieste, l'avete portati a vaccinare in quella struttura, mi raccomando non intasate le linee perché state creando problemi a tutti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi più avanti torneremo a parlare di immigrazione, lo faremo con andando sempre in Friuli Venezia Giulia perché abbiamo un caso di espulsione al contrario, forse il primo, tre richiedenti asilo che si erano registrati in Austria, sono venuti in un centro di accoglienza in Italia e sono stati rimandati indietro. E poi parleremo con un sindaco della provincia di Foggia che anche là sono i soliti problemi di quattrini, il comune non ha quattrini, lui va in giro con la panda, prende i bambini e li porta a scuola. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, in diretta sempre da Bologna e dai nostri studi del Cersaie. I nostri titoli nel giorno del voto per il no alle Olimpiadi, ancora una grana per il Comune di Roma, si sarebbe dimesso il ragioniere generale ma il Campidoglio smentisce. Nel frattempo l'avvocatura di Roma Capitale pochi istanti fa ha chiesto 600.000 euro di danni all'ex sindaco Ignazio Marino per l'uso improprio della carta di credito del Campidoglio e per ingiusto profitto procurato alla propria Onlus. Più deficit per sisma e migranti per 7,7 miliardi, lo chiede il governo nella nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza. Sul fronte delle pensioni, l'APE avrà un costo inferiore alle cifre circolate, dice il sottosegretario Nannicini. Inizia stasera lo sciopero del personale ferroviario, a rischio soprattutto i treni regionali, si parte alle 21 e si finisce alle 21 di domani. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia, almeno per il momento non si sposta di molto e va a Tarvisio che è uno dei confini delicati per tutta la questione migranti, insieme a Ventimiglia, insieme a Como, che abbiamo raccontato nelle settimane scorse. Le cose sembrano essere non solo più tranquille, ma andar meglio anche nei rapporti con l'Austria, a quanto pare. Olivo Comelli, segretario regionale del SAP Friuli Venezia Giulia, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, se ho capito bene, ci sono stati 3 richiedenti asilo che sono stati rimandati indietro in Austria. Succede anche questo? Perché prima era il contrario, no? Sapevamo quel che sapevamo noi. No, sì, allora, sì, questo fatto è accaduto, ma d'altronde questa è la procedura. Se i rintracciati sono positivi al sistema Eurodac, in questo caso erano stati rintracciati in Austria, avevano chiesto la protezione in Austria, sono state attivate le procedure e sono stati riammessi. La novità è che da 20 giorni circa vengono effettuati, come avevamo chiesto noi, le pattuglie miste su tutti i controlli, su tutti i convogli ferroviari, sia in entrata che in uscita, e da quel giorno gli ingressi sono stati a zero sui convogli ferroviari e sono stati solo rintracciati 27 sulla viabilità ordinaria. Quindi rispetto ai numeri che avevamo fino ad agosto, più di 6.000 rintracci dall'inizio dell'anno, è un bel passo avanti. Eh sì, le cose quindi si stanno normalizzando a Tarvisio, in sostanza. In questo momento sì, è chiaro che la guardia non va abbassata, perché comunque chi vuole entrare in Italia, sapendo che via ferrovia non lo potrà più fare, cercherà di farlo attraverso le strade o attraverso i passaggi, insomma, della fascia confinaria. È chiaro che diventa più difficoltoso, perché un conto è salire sul treno a Vienna e scendere a Tarvisio tranquillamente, un conto è trovare i passaggi, attraversare la frontiera comunque a piedi o con qualche passer, ma lì c'è anche il rischio, per chi agevola questo tipo di attività, di essere arrestato. Quindi la cosa diventa più controllabile, non come prima, che era fra virgolette una serata di Stato. Insomma, gli austriaci avevano, mi permetta il termine, facevano un'attività un po' truffaldina, insomma. Mentre invece adesso le cose si sono sistemate. Bene, lieti di aver raccontato qualcosa che funziona. Grazie ad Olivo Comelli, segretario regionale del SAP Friuli Venezia Giulia, un sindacato di polizia. E chiudiamo con una storia che ci ha incuriosito. Vincenzo D'Aloisio, sindaco di Zapponeta, provincia di Foggia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, nelle settimane scorse, i nostri ascoltatori lo ricorderanno, abbiamo raccontato del sindaco che, dato che il bilancio comunale non, e poi i problemi burocratici non consentivano l'assunzione di un operaio ed eravamo in Sardegna, spazzava la mattina le strade, ripuliva le strade del suo paese. Lei fa una cosa diversa: visto che il bilancio comunale non consente il servizio di scuolabus, va a prendere i ragazzini con la panda, ho capito bene? Praticamente è proprio così. Noi siamo un comune che dal 2012 è in dissesto finanziario, con un buco di circa 17 milioni di euro e un disavanzo di bilancio consuntivo 2015 con un meno 1.300.000 euro, quindi un pieno disastro. Siamo il comune. Però una cosa la devo capire da Aloisio, ma come fa un comune di quanti? 3.000 abitanti siete a fare un buco da 17 milioni? Non lo so. Io sono sindaco da 3 Come non lo so? Ah, ok, lei è sindaco da 3 mesi. Io da 3 mesi sono sindaco, quindi ho avvertito questa esigenza da parte dei miei concittadini. Poiché il servizio non è previsto nei comuni dissestati, ho utilizzato la mia macchina, la mia Fiat Panda, una utilitaria, per prendere i bambini nelle periferie. Sono pochi alla fine, sono 3-4, quanti sono? 3-4 sono 4 attualmente, perché gli altri hanno perso ormai le speranze. Non sono più venuti al comune, questi sono più coraggiosi che si sono presentati e hanno detto: sindaco, dacci una mano. Ma sicuramente ce ne sono tanti altri. Ce ne sono tanti altri, dice che nemmeno vanno a scuola questi, quindi che cosa fanno? O si fanno accompagnare dai genitori. O si fanno accompagnare i genitori, oppure alcuni desistono e non vanno neanche a scuola. Senta, ma mi scusi da Luisa, io questa cosa però la devo capire, perché poi noi siamo una radio che si occupa parecchio di economia. Lei avrà iniziato a mettere le mani in questo bilancio per capire cosa c'è che non va, o no? Guarda, io allo stato attuale, talmente che ci sono priorità più importanti, che non ho ancora capito da che cosa è venuto questa manca. Anzi, colgo l'occasione affinché le istituzioni ci vengano in conto, perché qui veramente ci vuole un miracolo. Cioè 17 milioni di euro, noi abbiamo dei mutui circa 10 milioni, e pagheremo fino al 2040. C'è qualche cosa di impressionante. Ecco, qualche cosa impressionante. Ma mi scusi, la battuta è facile. Ce l'ha un assessore al bilancio lei? Certo che ce l'ha, è anche laureato in economia. È anche laureato in economia. Il nostro è un piccolo comune, non è che siamo per grosse risorse anche finanziarie interne. E qui veramente che ci vuole veramente un ruolo importante da parte delle istituzioni. Fino a quando andrà avanti con questa storia della Panda, secondo lei? Le toccherà far tutto l'anno? Ma io non ho problemi da questo punto di vista. Io fino a quando non ci verrà offerto un nuovo automezzante, le dico di più, c'è un paradosso. Praticamente la Regione Puglia ci ha affidati come contributo 25.000 euro per l'acquisto di un nuovo auto, un scuolabus, ma che noi non ci possiamo permettere la nostra compartecipazione. Quindi chiediamo alla Regione Puglia una deroga affinché possiamo comprare una scuolabus usata. È il paradosso, tra l'altro. E chi lo guida poi però? E qui c'è l'altro problema che risolveremo con le associazioni di volontariato, perché abbiamo bisogno di tutti, perché non abbiamo dipendenti che fanno le autiste. Quindi ci affideremo a delle associazioni che in modo volontario ci devono garantire il servizio gratuito a questi bambini sfortunati, che sono sfortunati. Va bene, io la ringrazio. Grazie Vincenzo D'Aloisio, sindaco di Zapponeta, provincia di Foggia, per essere stato con noi. E mi raccomando, appena viene a capire qualcosa di come avete fatto un buco di 17, avete genericamente, diciamo, come comune, fatto un buco da 17 milioni di euro in un paese di 3.000 abitanti, ovviamente ce lo faccia sapere. Grazie D'Aloisio, le auguro buona giornata, buon lavoro e buon accompagno dei bambini con la sua Panda. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.